Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. L'orologio biologico regola tutte le funzioni della nostra vita, ma il nostro stile di vita regola il suo buon funzionamento. Dormire poco, mangiare male, non fare attività sportiva può rovinare gli ingranaggi dell'orologio biologico e questo apre le porte a numerose malattie, tra cui il tumore. A Obiettivo Salute il dottor Benedetto Grimaldi, capo della linea di ricerca di medicina molecolare dell'Istituto Italiano di Tecnologia e ricercatore dell'AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. La natura ci ha dotato di un organismo che è basato su meccanismi molecolari, su delle molecole che stanno all'interno del nostro corpo. La comprensione di queste molecole è stata anche uno dei motivi che ha portato all'assegnazione del Nobel recente, e questo orologio funziona proprio per mantenere il nostro orologio in benessere, ma fargli seguire anche alcune regolarità. Quello che succede è che quando questa regolarità si rompe, voi immaginate un orologio in cui continuamente andate a giocare con le lancette, a quel punto l'orologio è stressato e stressandosi può a quel punto far sì che molte delle attività delle nostre cellule funzionino male, e quindi lo stress dell'orologio è proprio, ad esempio, sui tumori. L'Agenzia Internazionale per i Tumori nel 2007 ha riconosciuto come tutte le cose che possono stressare il nostro orologio, faccio un esempio, i lavori con alternanza di turni notturni e diurni, sono potenziali fattori di rischio per l'insorgenza appunto dei tumori. Sulle pagine di Obiettivo Salute il dottor Benedetto Grimaldi ci spiega come gli studi sull'orologio biologico potrebbero aiutarci a combattere il cancro. Da oggi, 6 ottobre, le persone affette da emofilia potranno prendere o rinnovare la patente. La norma, che inseriva le malattie ematiche nell'elenco delle patologie invalidanti, è infatti stata abrogata. La decisione naturalmente è stata accolta con gioia da tutta la comunità degli emofilici. A Obiettivo Salute Cristina Cassone, presidente FEDEMO, Federazione delle Associazioni Emofilici. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, perché siamo riusciti a dare una risposta concreta a un bisogno che ci veniva manifestato dalla nostra comunità, che si sentiva discriminato dalla sussistenza di questa norma ormai obsoleta, viste le condizioni di salute in cui versano attualmente gli emofilici e alle terapie, alle opzioni terapeutiche oggi esistenti. Volevo ringraziare le istituzioni per la collaborazione che ci hanno prestato, nonché l'Associazione dei Talassemici che si è battuta con noi per ottenere questo risultato. Siamo consapevoli della cautela in cui versavano le istituzioni prima di ascoltarci e delle necessità di valutare le condizioni del singolo al fine del rilascio, del rinnovo della patente di guida, ma non condividevamo il principio di preclusione o limitazione legato al fatto di essere persone con emofilia. E per oggi è tutto, tra poco vi aspetto in diretta video, parliamo di nutraceutica, tradotto la farmacia a tavola, vi aspetto insieme alla professoressa Adriana Albini. La programmazione di Radio 24 continua con Melog, io vi aspetto in diretta video e domani a mezzogiorno in diretta con Obiettivo Salute Weekend. Per oggi è tutto, vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto domani.